In quella parte della mia memoria, in quella parte del libro, in quella parte del libro della mia memoria, incipit vita nova. E apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno. Ecce Deus fortior me, dominabitur mihi. Thank you. una dolorosa infermitate, per 9 dì amarissima pena. E nello nono giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero. E cominciai a piangere, e cominciai a travagliare. E a immaginare in questo modo. Bagnandoli di vere lacrime, e io chiamava la morte e dicea: dolcissima, dolcissima morte, che mi fecero proporre di non dire. Io vidi cose. Io spero di dicer quello che mai non fu detto. Mi fecero proporre di non dire di lei. Io spero dicer di lei quello che mai non fu detto d'alcuna. Mi dà orrore. Uno soave sonno. Ma allegro. Ma con tanta letizia. Ma una meravigliosa visione e di pauroso aspetto. Amore. Piangendo, mangiando dubitosamente. Una nebula di colore di fuoco. Ego Dominus. Ego Dominus tuus. Una figura. Uno signore, amore. E la donna in amarissimo pianto, in grande angoscia, piangendo, vide Cortum. Mirabile, tu sei morto, visione, osanna. Osanna. Adam genuit set. A quo fili dei. Set genuit et nos genuit cepit invocare in nomen Domini. E nos genuit cainam genuit malalehel. Malalehel genuit laret. Yaret genuit in nos. Qui transatulet. Matusalem genuit lame. Lame genuit noe. Residuum tempus Deo soli cogitum. Tempus diluvium arfacere. Aqua e mai. Heber genuit falec. Tu resedificatum. Fata et inversione di piacere tuis. Falec genuit senec. Senec genuit ragan. Divinum madonum. Ragan genuit nacor. Ma la corte dei conti, per lo scritto in cui è sempre immersa la nostra vita. La vita della Bibbia. Parte di mare, grande foca del Pacifico, fornito di due lange zanne al 1965, dal fegato al frigorifero. Dalla prova del 9 al cavallo di Troia, dal lapsus linguae alla rivoluzione. Alla pietra focaia, alla luna, alla rame, alla polvere. Ah, per te ho invitato il rame e la polvere. Da un penitenziario di tabacco. Ho trascinato leppi e chiodi in pietra trasferita. Ti ho anche detto perfezione, sintelegibile, so detto nuovi musei. Quando sa cos'vento, singhi, fumo. lo suo corso prende da divino intelletto e da sua arte. L'arte vostra quella segue come il maestro fa il discente. Da queste due convene prender sua vita ed avanzar la gente. L'usuriere altra via tiene. Per sé natura e per la sua seguace dispregia. With usura eth no man house of good stone. With usura eth no man a painted paradise on his church wall. Arpe e lutte. Per me, valle d'abisso, profonda valle, nebulosa, un luogo d'ogni luce muto e con pianto e lamento, per me, piangendo. With usura. Questa usura che mostra quella segue come il maestro fa il discente. With usura. With usura. With usura no man painted paradise on this church. With usura no music is made to endure. It is made to sell and sell quickly. With usura, with usura the line grows thick. Eterno dolore. Tra la perduta gente. Lasciate ogni speranza. E tutto l'oro che è sotto la luna e che già fu di quest'anime stanche non potrebbe farne posare una. E il fuoco eterno e tra gli avelli fiamme. With usura, sin against nature, contra naturam. La musica è tutta relativa, come si vede nelle parole armonizzate e nei canti. Tanto più dolce armonia risulta quanto più la relazione è bella, perché massimamente in essa si intende. La musica trae a sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano da ogni operazione, sì è l'anima intera quando lode, e la virtù di tutti quasi corre allo spirito sensibile che riceve lo suono. Yeah.